Ora Pascur, figlio di Immer, sacerdote e ispettore capo della casa del Signore, sentì Geremia che profetizzava queste cose. Allora Pascur percosse Geremia il profeta e lo consegnò per farlo mettere ai ceppi presso la porta superiore di Beniamino, che è nella casa del Signore. Quando l'indomani Pascur estrasse Geremia dai ceppi, Geremia gli disse: «Il Signore non chiama il tuo nome Pascur, bensì terrore all'intorno. Infatti così dice il Signore: eccomi, io ti consegnerò al terrore, te e tutti gli amici tuoi. Essi cadranno per la spada dei loro nemici, e i tuoi occhi lo vedranno. Anche tutto Giuda consegnerò nella mano del re di Babilonia, e li deporterà in Babilonia e li colpirà con la spada. Io consegnerò tutta la ricchezza di questa città e tutti i suoi guadagni, tutti i suoi preziosi e tutti i tesori dei re di Giuda in potere dei loro nemici che li deprederanno, li prenderanno e li asporteranno a Babilonia. Quanto a te, Pascur, tu e tutti gli abitanti della tua casa ve ne andrete in prigionia. Arriverai a Babilonia ed ivi morrai. Ed ivi sarai sepolto tu e tutti i tuoi amici ai quali tu hai profetizzato la menzogna. Mi hai sedotto, Signore, ed ho ceduto alla seduzione. M'hai forzato ed hai prevalso. Son divenuto derisione tutto il giorno, chiunque si beffa di me, perché ogni volta che io parlo debbo gridare, violenza e rovina debbo proclamare. Sì, la parola del Signore è divenuta per me obbrobrio e beffa tutto il giorno. Perciò pensavo: non voglio ricordarlo e non parlerò più in suo nome. Ma ci fu nel mio cuore come un fuoco divampante compresso nelle mie ossa. Cercavo di contenerlo, ma non ci riuscii. Sì, ho udito le calunnie di molti. Terrore all'intorno. Denunziate e lo denunzieremo. Tutti gli amici miei osservavano il mio incespicare. Forse si lascia sedurre e prevarremo su di lui, prenderemo la nostra vendetta contro di lui. Ma il Signore è con me, qual forte potente. Perciò i miei persecutori vacilleranno, non prevarranno. Arrossiranno assai perché non avranno successo. Onta perenne che mai si dimenticherà. Ma tu, Signore degli eserciti, sei esaminatore giusto, vedi i reni e il cuore. Io gusterò la tua vendetta contro di loro, perché a te ho devoluto la mia causa. Cantate al Signore, lodate il Signore, che ha liberato la vita del povero dalla mano del malvagio. Maledetto il giorno in cui io nacqui, il giorno in cui mi partorì mia madre, non sia benedetto. Maledetto l'uomo che portò l'annuncio a mio padre dicendo: ti è nato un maschio, riempiendolo di letizia. Sia quell'uomo come le città che il Signore ha sconvolto senza pentimenti. Oda il grido al mattino e clamori di guerra a mezzogiorno. Perché non mi ha fatto morire nel seno? Mia madre sarebbe stata per me la mia tomba e l'utero gravidanza perpetua. Perché sono uscito dall'utero? Per vedere affanno e cordoglio e terminare nella vergogna i giorni miei.